possibile. Madrona, che fa? Madrona, che dice? Ogni giovedì dalle 12 alle 13. Musica, parole, racconti, favole. Benvenuti e benvenute alla puntata odierna di Mamatrona, che è dedicata alla Europa dell'Est, con un'attenzione particolare alla musica balcanica e anche alcuni elementi, alcune note di cultura, musica e tradizioni di questi luoghi. Iniziamo ascoltando Strade dell'Est di Franco Battiato, che appunto ci introducono a questa zona geografica. Thank you. che dall'Albania portano tanti stranieri in Siberia. Tappeti antichi, mercanti indiani mettono su case tra Russia e Cina. Strade dell'est. Dai turchi e dagli iracheni, qui fece campo Mustafa Mullah Barzani. Strade dell'est, immensi orizzonti, città nascoste di lingua persiana, da qui la fine. Chiuse in castelli per troppa bellezza, fiori di loto, giardini stupendi, e Leningrado oggi. Di notte ancora ti può capitare di udire suoni di armonium sfiatati, e vecchi curdi che da mille anni offrono il petto a novene. Strade dell'est. Va bene. Ma attenzione, che c'è al telefono? Che c'è? Oh, ma io sono la signorina Paolone di Matera. Signorina Paolone, cosa signorina ci voleva dire? Che io sono la lavoratrice, vi sento perché siete molto brave. Io le mamatrone me le sposo tutte. Oh, brava, okay. signora. Che signor. cosa vuole dire sull'Europa dell'Est? Ma io c'ho i parenti là, C'hai parenti? Sì, sono tutti amici miei là, Li conosco, Mi scusi signorina, non ho sentito. Cosa? Cosmopolita internazionale. Ah, brava signora. Va bene, signori, siete bravissime, vi do tanti baci. Grazie. Ciao, mamatrone. Buon lavoro signora. Grazie, un bacione. Ciao. Ed ora Laico Felix con Citeras. O come si dice, perché qua purtroppo la pronuncia non è il nostro forte. E questa che state ascoltando è Ederlesi, una canzone popolare tradizionale, lingua romani, della popolazione dei Balcani, e il cui titolo appunto si riferisce a una festività serba della primavera, appunto, che cade il 6 maggio. E questa versione che state ascoltando è quella di Boban Marković, che è probabilmente il musicista più famoso e più premiato della musica balcanica, che ha vinto numerosissime volte anche il Festival di Guja, di cui parleremo in seguito, e che è stato lanciato e diffuso a livello internazionale grazie anche ai film di Emir Kusturica. Allora vi lascio ascoltare questa tristissima Ederlesi. Questa canzone potrebbe fare da colonna sonora perfetta alle favole russe o a quelle dell'est europeo in genere, che sono caratterizzate da questa forte vena tetra, diciamo, e comunque l'est europeo ce lo ricordiamo tutte e tutti perché ci ha dato i vampiri e tanti altri elementi, diciamo, appunto di riflessione anche, ma che comunque non difficilmente ci richiamano a uno spirito gioviale che magari è più invece vicino a una cultura romì, che pure invece è presente in questi paesi. E adesso, quindi, per ritornare un po' con l'allegria, ci sentiamo una canzone decisamente anni 70 dell'est europeo. questa è Shutareka, che trovate su YouTube come Zutareka, e vi consigliamo la visione della copertina perché è veramente molto molto molto fricchettona. E la prossima canzone è Bulgarian Chicks dei Balkan Beatbox, che riprende in qualche modo una filastrocca tradizionale bulgara stravolgendola moltissimo. Questo gruppo è Balkan Beatbox, che è molto particolare perché fonde vari stili musicali, sia della musica del Mediterraneo, sia delle tradizioni balcaniche, ma anche con l'hip hop e i beat da dancehall, ma anche delle influenze del dub giamaicano. Quindi veramente una grandissima varietà di stili. Vi faccio sentire Bulgarian Chicks. E se prima parlavamo di primavera con Ederlesi, rimaniamo in tema di primavera, nonostante da due giorni siamo entrati in estate, parlando appunto della festa della primavera in Bulgaria. E, il primo marzo si festeggia l'ingresso, il benvenuto alla primavera, proprio con un'usanza molto particolare, che è quella di scambiarsi un piccolo ornamento rosso e bianco, appunto la martenizza, che viene regalato tra le diverse persone come segno di buona salute e lunga vita. E rispecchia il rosso rispettivamente per le guance rosse e bianche per i capelli bianchi e la vecchiaia. E, si indossano fino a quando si vede il primo segno dell'arrivo della primavera e si appendono ad un albero. Dopo questa usanza bulgara vi lascio con una nuova canzone. Questa è Trans Balkan Express di Our Man from Odessa. Rimaniamo in Bulgaria per parlare dei nestinari, ovvero dei danzatori che appunto danzavano sulla brace e che erano considerati essere eccezionali o messi del cielo. Addirittura non si, pe- si riteneva che fosse impossibile compiere la danza sulla brace, che era un rito di carattere religioso e celebrato una sola volta all'anno, il giorno di Re Costantino e della regina Elena, che sono santi della Chiesa ortodossa. E forse questo rito era un rito purificatore. Infatti si può anche notare come molte delle culture del mondo, insomma anche più vicina alla nostra, ci siano queste danze accompagnate dallo stato di trance, siano spesso appunto accompagnate a periodi particolari e periodi di purificazione. Quindi gli anestenaridi cadevano in un particolare stato d'animo prima di metter piede sulla brace e poi durante la danza. Dunque passiamo ora a un'altra canzone. Una canzone di Emir Kusturica e la No Smoking Orchestra, che si chiama Unsa Unsa Time. You with my rhythm stick, so let let her be a letter be light. Let her be a letter be a letter be a letter be sound. Let the beer music be wine, 'cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, fine. It's unza, unza, unza, unza, try. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, fine. It's unza, unza, unza, unza. You with my rhythm stick. E adesso ci spostiamo in Ungheria, viste le origini di alcune mammatrone. O forse solo una, e ci sentiamo prima una cosetta così di musica popolare ungherese, che il cui video fa molto molto ridere e che ricorda un po' in realtà periodi un po' più invernali. Szívem, vajon ki gyógyít meg engem? Kövek az én szívről vajja, piros ejemmel kiparva, magamról ha leverkezem, szívem bejem, halálkezem. Bőr a pázsit megnőtt a bű, az én rózsám törvinteni. Dopo aver ascoltato appunto queste musiche tradizionali, passiamo a Béla Bartók, che è uno dei maggiori studiosi appunto delle musiche tradizionali, uno dei primi che ha studiato appunto l'Europa dell'Est da questo punto di vista, e che è stato anche fondatore dell'etnomusicologia, e che appunto è riuscito a fondere nella sua opera musica classica, musica tradizionale e molto altro, e d'altra parte anche lui stesso è riuscito a essere una buona tra virgolette fusione di esperienze e culture, in quanto nato in Transilvania, che come sappiamo è uno dei luoghi con la maggior presenza di diverse etnie in Europa, forse. Quindi passiamo appunto a Bartók e ci sentiamo Romanian Dances. Thank you. rimaniamo in Romania con la fanfare Ciocarlia. Și la urcă Ed eccoci in Serbia con Goran Bregovic e Underground Kocek. E proprio in Serbia rimaniamo parlando del Festival di Guja, un festival per gli appassionati di musica balcanica sicuramente conosciuto. Si tiene a Guja, un minuscolo villaggio a 150 km dal sud di Belgrado, in cui si tiene una festa popolare di 7 giorni, fatta di suoni, danze, alcol e il Festival della Tromba, di cui l'anno scorso si è celebrato il 50° anniversario. Si svolge ormai appunto da 50 anni nel periodo di agosto e coinvolge fino a 500.000 di persone. Quindi accanto a un concorso ufficiale con la presenza di famosissimi musicisti, ci sono anche centinaia di bande che scorribandano per piazze, ristoranti, bar, ovunque, per sentire loro musica in cambio di una piccola offerta da gettare nelle loro trombe per riposarsi un attimo prima di venire nuovamente assordati. Il tutto ovviamente è condito con fiumi di alcol e tonnellate di cibo, e in particolare greggi di maiali arrosto, grigliate di carne, quindi sicuramente una situazione divertente, edonistica e fuori dalle regole. E antispecista. My baby came down from a mania. She was a queen of Tanzania, but now we live in suburbia without any friends about Serena. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania, but now we live. Questa canzone, che si chiama Disco Partizani, la dedichiamo a quei pischelletti che fanno le scritte in giro. E questo è Chantel. Partizani, hey, hey, hey, hey, hey, disco, e sfumiamo Disco Partizani per sentire i Gogol Bordello, un gruppo nato nel 93 che ha fondato quello che viene chiamato Gypsy Punk e che sono stati lanciati addirittura da Madonna. Quindi sentiamo Start Wearing Purple. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Since you were a 20, I was 20 and thought that some years from now a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. Hold your sanity. From Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в ну. E le mamatrone vi salutano, vi ci sentiamo giovedì prossimo. Un grande, grande saluto e un buon pranzo a tutte e tutti. E adesso per chiudendo, Wacha Clan. Un saluto a tutte le mamatrone in ascolto! Soprattutto quelle che non si sono svegliate in tempo.